Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Il 24 settembre scorso è stato firmato un accordo quadro per la commercializzazione di bovini da carne e per l'organizzazione di un progetto di filiera italiana 4I. L'accordo quadro ha due scopi: regolare il mercato dei bovini da carne, programmando ad esempio l'acquisto dei ristalli, l'ingrasso e la macellazione e la commercializzazione della carne, ma anche un secondo scopo che è la produzione di una filiera tutta italiana che parta dai vitelli italiani da svezzare e poi destinare all'ingrasso. Per parlare di questo accordo che sembra innovativo, abbiamo oggi ospite Giuliano Marchesin, presidente di Unicarve. Benvenuto e grazie della disponibilità. Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori. Ecco, la prima cosa che ci viene da chiedere è: cosa significa filiera italiana 4I? Filiera italiana 4I è praticamente il diminutivo di nato in Italia, allevato in Italia, macellato in Italia, sezionato in Italia. Ovvero la possibilità di far nascere dei vitellini nel nostro paese in maniera tale da poter pian piano, diciamo così, sostituire gradualmente le forniture che ci arrivano dalla Francia dei vitelli da ingrassare, perché loro da sempre hanno fatto una politica di mantenimento della vacca nutrice, mentre noi in Italia da anni l'abbiamo abbandonata a favore dell'industria, a favore di altri settori. E praticamente oggi siamo dipendenti completamente dall'estero per i piccoli vitelli da ingrassare nelle nostre aziende. Quindi questa è un po' una grossa novità. Ma diciamo che nessuno ci ha provato prima, ovvero esistono delle aziende di vacche da latte che oltre a procurarsi dentro nella loro stalla le manze da utilizzare per fare il latte, si fanno anche dei vitelli da carne, ma i numeri sono irrisori, sono veramente pochi. Allora noi abbiamo cercato di organizzare un accordo tra allevatori di vacche da latte, tra svezzatori di vitelli, tra ingrassatori e macellatori. È un accordo molto importante perché segna l'inizio di una collaborazione che tra virgolette non c'è mai stata. L'allevatore di vacche da latte che decide di usare il seme di tori da carne per produrre i vitelli da carne lo venderà allo svezzatore, che poi sarà tranquillo perché c'è un ingrassatore che a sua volta lo acquisterà per portarlo al peso necessario per la macellazione, e ci sarà il macellatore che già d'accordo lo utilizzerà per commercializzare la carne che dopo ottiene. Ci manca il terzo anello della filiera, allevatore, macellatore e quindi distributore. La grande distribuzione noi pensiamo di coinvolgerla dopo che abbiamo messo a punto, quindi che funzionerà molto bene l'attività di questi due primi anelli, in maniera tale dopo da arrivare a organizzare anche il terzo per calmierare il mercato, per regolare il mercato, anche in funzione di consegnare un prodotto al consumatore che sia di qualità ma al giusto prezzo, che quindi non ci sia, diciamo così, una speculazione che spesso avviene soltanto da parte di uno degli anelli della filiera, che poi speculazione non si tratta perché è nel libero mercato, sostanzialmente chiunque può applicare i prezzi, certo, che vuole. Il prezzo che vuole. Ma avete anche pensato al recupero di qualche razza particolare per questa filiera oppure no? La collaborazione dell'Intermizò, che è l'ente che fornirà il seme, e con l'Intermizò sostanzialmente siamo d'accordo di trovare semi di tori di razze da carne. Cioè non c'è la necessità di diciamo così andare sui libri di storia a recuperare delle razze in via di estinzione e via discorrendo, perché comunque la genetica che loro hanno a disposizione è in grado di fornirci dei vitelli che poi saranno utili per arrivare ad avere dei tori da carne in grado di soddisfare le richieste della macellazione e dei macellai, dei distributori e dopo alla fine anche dei consumatori. Ecco, 100% italiani in questo caso. Sì, 100% italiano, diciamo che questo è un accordo storico, dobbiamo farlo funzionare da subito, noi stiamo già facendo le riunioni nel territorio, stiamo cercando di coinvolgere gli allevatori di vacche da latte perché da una parte chiederemo loro di usare il seme sessato per poter avere la garanzia che gli nasceranno dalle vacche migliori le femmine, le manzette che poi utilizzeranno per fare il buon latte che siamo abituati a bere, e dall'altra parte avere più vacche disponibili per ricevere seme di tori da carne e quindi fare diciamo dei numeri importanti per quanto riguarda i ristalli. Certo, ci fermiamo un attimo, a tra poco. Il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita. We were made to love. You were sent for me too. We were made to love. We were made to love. Oh, I've never seen anything. You're much more than human being. Extraordinary machine. Oh, I never loved. Never loved someone like this. All I know. Torniamo in linea con la trasmissione Il Quadrifoglio. Oggi stiamo parlando di un nuovo accordo quadro per un progetto di filiera italiana relative alla carne bovina. Ne stiamo parlando con Giuliano Marchesin, presidente di Unicarve. Ecco, volevamo un po' sapere anche qual è la situazione del consumo di carne in Italia. Sta crescendo, sta calando? Sappiamo che c'è molta più attenzione alla salute e anche a quello che si mangia in questo periodo. Ma diciamo che il consumo potrebbe essere stazionario se rapportato agli usi e costumi dei consumatori. c'è un po' di riflessione, perché ovviamente la crisi ha portato a far sì che la gente cerchi di risparmiare il più possibile, anche se va detto che il consumatore mette a confronto il costo di una pizza con quattro bistecche, vede che costano meno le quattro bistecche della pizza, e la pizza la mangia uno solo, le quattro bistecche si possono mangiare in quattro. Detto questo, noi riteniamo che da una parte l'accordo per le 4i, cioè del nato in Italia, allevato eccetera in Italia, sia storico, però c'è anche un altro fatto molto importante, che è quello legato alla filiera tradizionale, cioè quella che già esiste, cioè con i ristalli che vengono acquistati in Francia o Austria o altri paesi. Ecco, i ristalli poi, esattamente, sono i vitelli? I vitelli, diciamo i giovani vitelli, che dopo vengono ingrassati, perché un vitello tenuto al pascolo, nei pascoli francesi, austriaci, eccetera, non è che dia carne buona. La carne buona ne esce solo dai vitelli che sono allevati a cereali, bevono acqua pulita, sono in ambiente protetto, hanno un massimo di rispetto del benessere animale, se sono nelle condizioni ottimali per poter dopo produrre la carne che siamo abituati a mangiare. Quindi la filiera tradizionale si è riusciti a mettere d'accordo i primi due anelli di questa filiera, allevatore e macellatore, per fare dei contratti in maniera tale che si possa anche in questo caso andare a regolare il mercato, per poi far sedere al tavolo il terzo anello della filiera. Quindi abbiamo praticamente i due progetti che sono paralleli. C'è da dire una cosa, che noi Comunicarve abbiamo anche progettato di accompagnare questi progetti con dei marchi istituzionali. Uno è quello della Regione Veneto, che è il marchio qualità verificata, e l'altro è quello che stiamo portando avanti a livello nazionale, che è Sigillo Italiano, che però purtroppo, ecco, vi do una notizia diciamo così tra virgolette indiretta, proprio oggi abbiamo saputo dal Ministero delle Politiche Agricole che il disciplinare del vitellone ai cereali, peraltro già approvato a livello veneto, presentato al Ministero, ha ricevuto delle osservazioni nei 30 giorni di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale da parte di un'organizzazione di categoria, la UNICEB, che tra l'altro nella sigla dicono di rappresentare macellatori, importatori, allevatori, cioè il mondo intero, e con le loro osservazioni di fatto hanno bloccato il disciplinare, e questo è un gravissimo danno per la zootecnia. Noi non sappiamo cosa li ha guidati a far questo, adesso andremo a leggere quando entreremo in possesso le carte che li hanno guidati a presentare queste osservazioni, e capiremo il motivo per cui non amano il settore della zootecnia. Nel concreto questo cosa significa? Vitello e cereali significa un vitello alimentato cereali? Sì, significa che noi abbiamo presentato un disciplinare, abbiamo stabilito che l'alimentazione è a base di cereali, gli abbiamo dato una definizione, e una volta approvato il disciplinare a livello nazionale c'è la possibilità di utilizzare un marchio istituzionale per riconoscerlo. Purtroppo loro hanno bloccato questo passaggio. Questa possibilità di questo marchio. È una cosa gravissima, insomma, ecco, anche perché cioè, il vitellone e i cereali, i nostri allevatori lo stanno facendo già, e lo stanno facendo di ottima e alta qualità. Cercheremo di avere maggiori informazioni e di tenere sott'occhio questa vicenda. Intanto abbiamo fatto un po' luce su questo nuovo progetto di filiera e ti ringraziamo per la disponibilità nuovamente. Grazie a voi, buona serata. Passiamo adesso ad alcune notizie. È stato raggiunto a Vilnius, in Lituania, paese presidente di turno dell'Unione Europea, il definitivo accordo sulla riforma della politica agricola europea 2014-2020, con la soluzione delle ultime questioni rimaste in sospeso. Il presidente della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo, l'italiano Paolo De Castro, ha sottolineato come l'accordo rappresenti un successo importante, essendo l'ultima tappa di un negoziato lungo e complesso, durante il quale il Parlamento ha modificato in maniera sostanziale la proposta originaria della Commissione. Lunedì 30 settembre i quattro dossier legislativi saranno votati in Commissione Agricoltura del Parlamento, seguirà il voto in plenaria molto probabilmente già nel mese di ottobre. Domenica 6 di ottobre torna nelle distillerie di tutta Italia Grapperie Aperte, un appuntamento promozionale organizzato dall'Istituto Nazionale della Grappa per valorizzare e far conoscere il distillato di bandiera anche ai non addetti ai lavori. Per informazioni sulle 32 distillerie aderenti si può visitare il sito www.istitutograppa.org. Domenica 13 ottobre invece torna la giornata delle fattorie didattiche aperte, che la Regione del Veneto organizza in collaborazione con le organizzazioni professionali e le associazioni agrituristiche regionali. Ultima notizia, ha preso il via la scorsa settimana la quarta edizione del Festival Triveneto del Baccalà verso Expo 2015. In tre mesi 30 chef dei migliori ristoranti del Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige daranno vita a una sfida finalizzata a innovare un piatto della tradizione, una sfida lo scorso anno vinta da Alessandro Breda, chef patron del ristorante Gellius di Oderzo. La manifestazione si concluderà il 4 dicembre con la proclamazione del nuovo vincitore. L'elenco delle serate, che sono a pagamento con prezzi che variano dai 30 ai 60 euro circa, si possono trovare sul sito www.festivaldelbaccalà.it. Anche per questa settimana è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima con il quadrifoglio. Ci potete riascoltare sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita, in collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.